Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Di Cristina Carpinelli. Visto che vi interessa la periferia, vi racconto com'è una delle tante. Questa. Vi racconto cos'è per me Corvetto, ok? Corvetto è la periferia, la vita marcia s'avvia. Traffici illeciti, ricchi come a Scampia. La polizia. L'infamità di un imborghese, una spiacevole spia. Sulle note di Josh, un rapper di Corvetto, entriamo in questa storia. Una giornata in uno dei quartieri dove il disagio giovanile è in aumento, dove lo spaccio è il principale settore di introito, un posto dove avere 12 anni può essere davvero faticoso. Tutti questi anni di questo famoso boschetto della droga, di diffondersi di bande, di agglomerati di ragazzini che vagano per il quartiere è diventato molto più evidente e molto più pervasivo anche dei rapporti, e dentro una fragilità familiare che c'è molto grossa, soprattutto questi gruppi di, chiamiamole bande, ma non pensando alle bande latinoamericane nel senso classiche, che forse in questo momento ci sono meno, ma proprio agglomerati di ragazzi che si radunano sul vuoto che hanno, comunque fa molta presa, no? Per cui ragazzini che non si sentono appartenere a nessuno trovano un'identità. E questo, non sto pensando ai ragazzini che abbiamo in carico noi, ma al quartiere, crea queste scorribande che sono veramente difficili da gestire e che stanno creando gravi complessità anche all'interno delle scuole, no? Per cui anche le scuole in cui lavoriamo sono veramente provate dalla presenza di nuclei consistenti di ragazzi che non hanno più voglia di investire in un progetto di costruzione, no? Per cui banalmente sfasciano tutto di continuo, pestaggi all'ordine del giorno, furti, vendette, per cui non so cosa sarà stato gennaio, forse tra dicembre e gennaio c'è stato un pestaggio che aveva visto coinvolti 70 ragazzi di tre bande diverse. Poi bande vuol dire quelli che si ritrovano in piazza Gabrielosa, quelli che si ritrovano in viale Ungheria, quelli che si trovano in piazza Le Cuoco, cioè, perché poi la banda, cioè ciò che lega il territorio, non è tanto una visione pur negativa, ma è proprio l'appartenenza a un luogo, no? E quanti anni hanno? Dai 12 ai 17, sono anche piccoli, sì sì. E quindi questo aspetto è un aspetto, per esempio, che anche noi al centro diurno stiamo vedendo, e al centro di aggregazione in questi anni abbiamo visto tantissimo, gli altri anni non l'avevamo visto così, no? Tantissimi pranzi con gli educatori sono incentrati su, no, ma quello ha fatto così, adesso oggi lo vanno a pestare, adesso vanno là, no, ma io devo uscire alle 5 perché dobbiamo trovarci. Cioè, nel senso che comunque è proprio un, cioè, uno scontro di, mi viene da dire generazionale, ma non so neanche se è il termine esatto, è proprio il fatto di dover appartenere a qualcuno, no? E questo è sicuramente un aspetto di grandissima fatica, no? Per prima non c'era. Io non, così evidente non l'ho mai visto, sinceramente, nel senso che sì, ovvio che poi le teste calde c'erano anche quando andavo a scuola io 40 anni fa, però secondo me è proprio, come dire, un tentativo di appartenere a qualcosa. E secondo me poi c'è un mondo adulto che sta veramente impoverendosi, no? Cioè le scuole, adesso non voglio fare un discorso di massima perché ci sono degli insegnanti che anche in questo lockdown hanno dato la vita per questi ragazzi bravissimi, però la scuola come istituzione sta molto venendo meno, no? Anche gli strumenti che ha sono sempre meno, per cui anche il fatto che, per esempio, non so, nelle scuole qua i corpi docenti sono sempre precari perché gli insegnanti vanno via, non c'è mai una stabilità dei docenti, per cui il docente ci mette un anno a creare un rapporto e dopo che l'ha creato va via. E questa cosa, cioè i ragazzi hanno bisogno di figure fisse, hanno bisogno di riferimenti certi. In mancanza di questo è proprio difficile. Il lockdown l'ha dimostrato a pieno. Cioè i nostri ragazzi che si sono persi con la scuola è perché non avevano un riferimento certo negli insegnanti, dove appunto non è che voglio dare una colpa a qualcuno, però è un dato di fatto, cioè se non so, noi abbiamo dei consigli di classe dove vanno i nostri ragazzi che su 9 insegnanti tutti agli anni ne cambiano 5-6, cioè è evidente che per dei ragazzi così difficili che ci mettono un anno per decidere se fidarsi, non è facilitante, no? Corvetto è un luogo da cui in tanti vorrebbero scappare e nel quale invece hanno deciso di restare le suore di via Martinengo, Quella che avete sentito è Suor Fulvia. Lei si occupa degli adolescenti. Al suo fianco ci sono altre persone, educatori, volontari, religiose. L'idea di fondo è non perdere la fiducia e infonderla negli altri, come è accaduto a Patricia, che alla cooperativa Martinengo si è rivolta quando era allo stremo delle forze. Sono boliviana, abito da 18 anni qua in Italia. Ho due figli, uno di 15 anni e la piccolina di 6 anni fa la prima elementare, invece il grande fa la scuola superiore di alberghiere. Ascolta Patricia, tu perché ti sei rivolta alle suore qui di via Martinengo? Praticamente è stato il servizio sociale che mi ha consigliato le suore. Cioè, nella crescita dei miei figli sono molto contenta perché loro mi conoscono ormai da un bel po' di anni. Quali sono state le cose che ti mancavano di più e che hai avuto, diciamo, venendo qui in questo posto? La fede. E la cosa più bella che quando tu a volte vuoi buttare giù le cose ti senti perché. Invece loro mi hanno sostenuto e fino adesso anche, cioè mi hanno dato un bel supporto, sì. Tu sei da sola coi figli? Sì, abito con i miei figli e sì, sono separata. Quindi è molto difficile anche proprio mettere insieme la giornata, cioè andare a lavoro, i bambini dove li lascio. Diciamo che adesso con il fatto del Covid, cioè non ho conosciuto nessuno, le scuole chiuse, non posso andare anche a trovare un lavoro perché dove lascio mia figlia? Cioè non puoi lasciare il grande con la piccola, sono comunque minorenne. Ho trattato di non, sai, di solito dicono non andare a chiedere aiuto perché ti tolgono i figli, le solite cose che le persone a volte giustamente mal informate ti danno consigli sbagliati. Ho trovato la forza e ho chiesto aiuto. Infatti, suora Stefania, ogni volta che suora Fulvia, suora Cristina, cioè qualsiasi cosa subito, non ti dicono no. Sempre c'è sì, troviamo soluzione. Questa è una cosa molto bella. Alla fine, ascoltando suor Fulvia, mi viene in mente Edoardo Galeano che sui bambini diceva: il mondo tratta i bambini ricchi come se fossero denaro affinché si abituino ad agire come agisce il denaro. Tratta i bambini poveri come se fossero rifiuti affinché diventino dei rifiuti. E quelli che stanno in mezzo, i bambini che non sono né ricchi né poveri, li tiene legati alla gamba del televisore perché fin da molto piccoli accettino come destino una vita prigioniera. I bambini che riescono a essere bambini hanno molta magia e molta fortuna. E di bambini che diventano subito grandi parliamo oggi, stando in questo centro di suore dell'Annunziata, in via Martinengo, periferia milanese degradata dallo spaccio, abbandonata per anni al quasi nulla. Suor Cristina. Cioè è un quartiere che ha una storia sicuramente positiva dal punto di vista delle realtà del terzo settore, delle risorse di volontariato, di associazioni, eccetera. Quindi ricchissima da questo punto di vista. C'è una parte del quartiere molto provata da case popolari molto anche degradate, dalla presenza di tantissimo spaccio, di tantissima droga. Famiglie che storicamente hanno vissuto e sopravvivono per lo spaccio, no? Prima in mano a certi tipi di famiglie, adesso passato ad altre famiglie, però la sopravvivenza spesso è legata, la sopravvivenza economica spesso è legata a questo. Esiste tantissimo abusivismo in queste case molto povere, molto degradate. E i nostri ragazzi, i bambini che noi seguiamo, provengono, no, da queste famiglie. Ci sono famiglie dove i genitori hanno abbandonato i figli lasciandoli in capo ai nonni, per cui incontriamo anche tanti nonni, no, che hanno un carico ancora molto pesante di responsabilità e di crescita dei nipoti. Però appunto nello stesso tempo vediamo anche, incontriamo quotidianamente tante persone che sostengono, no? che ci sono a servizio e di un bene. Quella di oggi è una storia che racconta anche un sodalizio, l'amicizia, il sostegno tra operatori del terzo settore. In questo caso le suore di via Martinengo che hanno ricevuto il sostegno di AVSI. Io sono Guido Calvi e lavoro per AVSI da 10 anni e coordino i progetti di emergenza del mondo. Attualmente mi occupo anche di questo progetto sull'Italia che abbiamo lanciato ultimamente. Noi siamo una struttura che comunque è basata in Italia e che lavora comunque da qualche anno insieme con dei partner quali le suore delle Carità dell'Assunzione per rispondere ai bisogni delle persone. E evidentemente questa crisi ha colpito tantissimo l'Italia e il luogo dove siamo. Nasce anche da la relazione con questi partner, ma dalle opportunità che ci sono. Noi abbiamo un grosso finanziamento che è stato approvato ultimamente, firmato dalla cooperazione americana, che ha delle componenti specifiche sanitarie, socio-economiche, educative. Abbiamo una fondazione svizzera che ci ha finanziato il progetto, appunto, in collaborazione con le Suore della Carità. Appunto, questa rete di relazioni con i donatori, questa rete che ci è stata, come dire, ci hanno chiesto loro che cosa noi, sfruttando l'expertise e i rapporti che abbiamo maturato in giro per il mondo negli anni, cosa noi potevamo fare insieme ai partner che sono sul territorio per rispondere a questa crisi in Italia. Per cui una combinazione di esperienza, di guardare il bisogno che c'è sul territorio e di opportunità concrete che si sono, presentate a noi. Tra palazzi popolari fatiscenti, situazioni di grave disagio, ci sono anche tante storie di normalità che qui, in questo posto, sembrano straordinarie, come quella di Lucy. Bueno, è venuto qua perché mi hanno, come si dice, collegare, mi hanno fatto conoscere, perché mia bambina c'è un po' di difficoltà. Mi teneva il problema un po' al parlare, logopedia, e bisognava tenere accanto un po' persone che parli più chiaro la lingua italiana. Come io c'è un po' di difficoltà a darle l'aiuto, per quello che ho conosciuto qua. Io ho una figlia di 20 anni. Mia figlia sta finendo il quinto anno della superiore. E adesso vuole continuare l'università. Stiamo trattando di aiutarla, no? Cosa vuole fare all'università? Fare studiare l'ostetra. Vuole fare l'ostetrica? Sì, sì. Vuole fare quello. E tu sei orgogliosa? Certo che sì. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo. Dall'emergenza Covid al sultano Erdogan, dalla guerra in Libia alla crisi siriana, dallo zar Putin ai ribelli di Hong Kong, immigrazione, politica internazionale, economia, conflitti. Ogni giorno ruotiamo il mappamondo e puntiamo il dito, con storie e analisi, con zoom e grandangolo, voci dal campo, analisti internazionali e un pizzico di metallo. Sono Giampaolo Musumeci e vi aspetto dal lunedì al venerdì alle 16 con Nessun luogo è lontano, naturalmente qui su Radio 24. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Sono Suor Valentina e, oltre ad appartenere alla Congregazione delle Suore di Carità dell'Assunzione, sono la presidente della cooperativa Martinengo, che è appunto la faccia civile con cui lavoriamo in quartiere e con la pubblica amministrazione. Operativamente voi cosa fate? Andate in giro per il quartiere? Com'è che vivete questo quartiere? Proprio la vostra giornata com'è? Alcuni di noi fanno lavoro domiciliare, per cui a ciascuna sono affidate dei gruppi di famiglie, e a seconda dei bisogni della famiglia che si incontrano in quella famiglia si va. Magari c'è qualcuno che va la mattina a accompagnare i bambini a scuola, qualcuno va a scuola a prenderli, a portarli in terapia per poi riportarli a scuola. Comunque si risponde ai bisogni che si incontrano nelle famiglie. E poi il pomeriggio invece l'attività si intensifica, perché spessissimo andiamo a prendere i bambini a scuola, all'uscita della scuola. Sicuramente lavorare sulla prevenzione è una cosa molto positiva, e poi ha sicuramente delle basi che poi il seme gettato è più solido. La cosa che mi viene da dire è che, cioè, comunque tu non hai mai la certezza che quel bambino, non poi crescendo, non prenda delle strade che non sono buone per lui. Beh, per esempio, sono andata per tantissimi anni in una famiglia con due fratelli che non avevano la mamma, e il papà aveva delle gravi difficoltà anche lavorative e di salute, e per tantissimi anni appunto andavo la mattina, li aiutavo a svegliarsi, li portavo a scuola, il pomeriggio li andavo a prendere da scuola, stavano qua, facevano i compiti, poi li riportavo a casa, e aiutavo tantissimo anche nella gestione della casa, essendo questo papà da solo. E poi io appunto sono cresciuti, hanno fatto le superiori con tantissime difficoltà perché hanno cambiato percorso e io per tantissimo non li ho più visti. Poi appunto rincontrandoli in quartiere, in realtà uno scopre che quello che avevano visto fare adesso, per esempio questo ragazzo qua che ha 21 anni, ha preso, essendo appunto il rapporto in famiglia continua a essere difficoltoso, però lui ha deciso di, ha trovato un lavoro, l'hanno assunto a tempo indeterminato, fa il barista e ha deciso di prendere casa, ha fatto i conti, ha pensato no ma io ce la posso fare e quindi si è reso autonomo, esatto. E lui dice, c'è stato un periodo, mi ha raccontato qualche tempo fa che ci siamo sentiti, c'è stato un periodo che ho pensato, ma dove sto andando, no? E mi sei venuta in mente perché ho pensato, ma lei che veniva tutti i giorni e non era neanche nostra mamma, perché faceva così? E per cui dentro questo bene che mi sono sentito addosso ho pensato che io potevo costruire su di me. Siamo nel quartiere Corvetto di Milano, in via Martinengo, con le suore dell'Assunzione che assieme ad AVSI stanno portando avanti un progetto di presenza soprattutto sui minori. Spesso accogliere i bambini significa trasformare percorsi di vita probabilmente destinati ad essere inghiottiti dal nulla in storie di successo e in certi contesti il successo è la normalità di un lavoro, una casa, una vita dignitosa come racconta Maria. Io 2 anni fa, lavorando, sono una mamma da sola e lavorando avevo dei problemi per andare a prendere il bambino a scuola. Ripeto, essendo da sola ho chiesto aiuto ai servizi sociali di avere un aiuto. Le suore qui di Martinengo si sono prestate a darmi veramente una grande mano. Sfortunatamente nel mio ambito lavorativo il contratto è scaduto ma non me l'hanno potuto più rinnovare. Novembre mi hanno assicurato che a gennaio mi rinnovavano il contratto ma non è stato così. Però io ringrazio sempre loro, le suore qui di Martinengo, perché comunque mi stanno aiutando a gestire il piccolino, malgrado le mie difficoltà lavorative. Poi abbiamo avuto il problema per il fatto del Covid e l'ho passata bruttissima perché sono stata praticamente abbandonata con quelle. Le suore mi hanno molto aiutato col pacco viveri, dandomi un aiuto anche economico. Luoghi dove anche il futuro può apparire come un mostruoso buco nero, spiega Suor Fulvia. L'aiuto che noi diamo è di guardare al presente, no? Nel senso che mi sembra che un aspetto che spesso facilita questa dimensione di perdita è il fatto che uno pensa al futuro, che essendo lontano e inimmaginabile facilita i mostri, come dico io, no? Luoghi dove l'adolescenza può essere davvero un momento di perdita feroce, ancora Suor Cristina. Questi risucchi da parte di nostri ragazzini in questi gruppi che per me rappresentano veramente il nulla, no? Il vuoto. A me istintivamente viene da attivarmi, da capire, da sbattermi a destra e a sinistra, no? Però sempre di più negli anni ho capito che quello che serve loro è il fatto di stare, no? Cioè di tornare a una stabilità, no? Cioè magari in quel momento lì vanno, fanno un casino, magari ne combinano anche di tutti i colori. Però il fatto che poi ci sia un luogo stabile, no? Che per loro ha iniziato ad essere una storia, li fa tornare. Se non c'è una relazione, no? Una storia che inizia ad essere la loro storia, vanno. Cioè non le ripeschiamo più, no? Allora, cioè questa cosa qui a me, proprio a livello di esperienza personale, dà moltissima speranza, no? Anche quando sembra tutto perso, no? Cioè io per esempio in questo lockdown l'ho vissuto tantissimo con dei ragazzini che appunto non rispondevano, tutti i giorni si negavano, poi a un certo punto nello star male hanno incominciato a invertire il giorno con la notte, no? Cioè guardavano di giorno, di notte guardavano le serie TV tutta la notte, poi al mattino non si presentavano più a lezione e con la scuola e al pomeriggio non rispondevano più alle nostre videochiamate, no? Cioè proprio uno sballamento gravissimo, no? E quindi un ritirarsi dalla storia e dal legame, no? In apparenza, no? Però poi a un certo punto, a forza di chiamarli, di mandare messaggi, di dire noi ci siamo, no? L'educatore, anche i nostri educatori che hanno tenuto durissimo, no? Rispetto al fatto di stare, no? E di non rompere il legame, ha fatto sì che questi a un certo punto si sono ripresi, no? Quindi la stabilità in un quartiere così provato, no? In momenti appunto di vuoto e di nulla, la stabilità di luoghi e di storie possono essere la speranza. Le povertà che incontriamo sono gravissime e tantissime, sempre di più anche segnate comunque da una mancanza di risorse, sia economiche a livello di servizi, ma anche come mancanza di risorse umane proprio. Intervistando alcune mamme, insomma, che sono entrate in contatto con voi, poi hanno iniziato un percorso, no? Anche di sostegno, eccetera, la sensazione, la parola che spesso è stata usata è stata essere ascoltati, quindi qui hanno trovato ascolto, ma soprattutto sospensione di un giudizio. Diciamo che lo scopo della nostra congregazione è quello di rifare un popolo a Dio, no? Questa cosa non è un guardare la persona da un punto di vista di un'appartenenza religiosa, no? Ma guardare la persona nella sua creaturalità, no? Nella sua, cioè, che scatta una modalità di sguardo libero, no? Di non segnato dai precedenti o dal limite, no? Ma dal fatto che uno esiste e il suo esistere ha un positivo in sé, no? E ci sono tante storie che poi si sistemano, diciamo, che passano da qui e poi si sistemano. Ne avete tante da raccontare? Beh, sì, tante. Cioè, le storie, le persone che incontriamo sono tantissime, anche perché siamo proprio radicate in mezzo al quartiere, in mezzo alla gente. Noi ci fermiamo qui. Vi ringrazio per essere stati con noi. Se volete potete scriverci a diario@radio24.it. Un saluto da Cristina Carpinelli. Diario di un giorno. Cronache dal sociale. Tutte le puntate sono disponibili in podcast su radio24.it.